Eccoci di nuovo in diretta 87.900 di Radio Onda Rossa. Siamo collegati telefonicamente con Pietro. Ciao Pietro. Ciao. Allora Pietro lavora nelle ditte che operano alla Sapienza per rendere insomma agibili quelle strutture dal punto di vista delle pulizie. Già ci hanno raccontato le settimane scorse, quando è iniziata questa fase di agitazione. Senti, scusa, ti sento malissimo. Oh, adesso va meglio? Poco meglio, ma poco. Allora, sforziamoci di far andare il tutto al meglio, Pietro. Noi ce la mettiamo tutta, insomma. Allora, non ti sento, guarda, proprio lontano ti sento. Allora. Dicevo, alcune cose gli abbiamo già raccontate. Io, Pietro, volevo chiederti come sta andando dopo l'inizio di questa fase di agitazione, le sue evoluzioni e che grado di coinvolgimento c'è rispetto ai lavoratori, per l'appunto, e alle lavoratrici, certo, di queste ditte. Ho capito, okay, bene. Guarda, noi ci abbiamo avuto, dopo diciamo appunto i primi momenti, diciamo appunto, sit-in, volantinaggi e così via. Ci siamo dati un appuntamento, diciamo appunto ieri, appunto, in cui per poi riunirsi in assemblea, diciamo, fra lavoratori e studenti. E chiaramente dentro a questo c'è il boicottaggio oggettivo da parte sia di queste cooperative attraverso i loro quadri intermedi, per cui prendere personalmente lavoratore per lavoratore e scoraggiarlo in varie forme, di non partecipare a queste iniziative, dicendo che queste forme di lotta, queste iniziative sono perdenti, non si ottiene nulla, la società sta cambiando, è come dire che noi siamo i cattivi e la società è buona, capito? Invece si è potuto ottenere, grazie alla mobilitazione dei lavoratori e dei studenti con grande partecipazione e incisività, si è potuto ottenere che alcuni lavoratori potessero essere integrati con l'orario continuato. Per cui questa non è perché la società che sta diventando buona, questa cooperativa, ma perché attraverso queste iniziative, queste pressioni, che sta ritornando indietro. È questo che devono capire i lavoratori, non tanto dare retta a questi pseudo quadri di questa cooperativa e né tantomeno ad alcuni sindacalisti che pompano contro questa cosa. Noi l'abbiamo scritto anche nel volantino che abbiamo fatto, abbiamo denunciato l'atteggiamento della UIL e della CISL, che si sono dissociati dalla prima denuncia che noi abbiamo fatto nei confronti di questa cooperativa, e sia nell'atteggiamento da parte dell'università. La cosa che... Sì, ti sentiamo. La cosa insomma che emerge con chiarezza è che quindi dei primi risultati già sono stati raggiunti, quantomeno... Il fatto che attraverso la lotta possano essere raggiunti dei risultati dovrebbe cominciare a far breccia, insomma. Però noi ci scontriamo con la mistificazione dell'azienda, e per cui oggi, questa mattina alle 6, noi lavoratori insieme ai studenti abbiamo fatto il volantinaggio per informare, oltre che informare anche discutere, aprire delle discussioni chiaramente molto limitate, perché non è che si può, mentre uno attacca e va al lavoro, cioè qui due o tre minuti in cui puoi affrontare alcune questioni, ma anche proprio per ribadire che è attraverso la lotta e l'unità dei lavoratori che si è potuto ottenere anche se pochi risultati, ma quelli sono fiduciosi, che ci danno fiducia in avanti. E certo. Questa è la cosa. Senti, questa alleanza, questa cosa è stata discussa, è stato oggetto di discussione ieri in assemblea, non soltanto sulle questioni, diciamo, dei punti inerenti alla, alla nostra iniziativa, insomma, ma anche mettendo al centro a discutere con altri lavoratori e con gli studenti sulla questione dell'esternalizzazione. Chiaramente questa cosa è un punto, diciamo, appunto, che va fatto un grosso lavoro, però noi pensiamo che questo sia un obiettivo che possa, diciamo, appunto, unificare situazioni lavorative molto vaste. Quindi, insomma, c'è nelle intenzioni, quantomeno, diciamo così. No, c'è proprio una continuazione. Noi già ci siamo dati una scadenza per lunedì mattina alle 10 davanti al rettorato, sempre con la solita forma di sit-in, e poi dopo da lì decideremo che cosa fare, se riunirci in assemblea o altro, insomma. Certo. No, però dicevo, davvero è importante il fatto che all'interno delle discussioni tra di voi, anche delle discussioni con gli studenti, sia riproposta con forza anche è aggredita con forza questo nodo, che credo poi sia alla fine quello dirimente, insomma, delle esternalizzazioni, nel senso che non ci si limita, almeno a livello di discussione. Anche perché è parte da un'oggettività concreta. Cioè, si sciacquano tanto la bocca sul discorso dei risparmi e dei costi, quando noi dimostriamo che attraverso l'assunzione diretta da parte, in questo caso, dell'università, porterebbe a un abbattimento dei costi del 60%. E qua parliamo su 5 anni di 35 milioni di euro, e non parliamo di caramelle. Capisci, voglio dire? Per cui, diciamo, appunto, un abbattimento del 60% sono svariati soldini. È evidente. Perché è chiaro a tutti, perché c'è le aziende che ci mangiano a rotta de collo, anche l'università probabilmente qualche cosetta c'ha il suo tornaconto. E chiaramente ci troviamo anche le confederazioni che chiaramente remano contro a questa cosa. Per cui è chiaro che è difficile, però non è detto che non ci deve lottare per il raggiungimento di questo obiettivo. È un bel banchetto, so, insomma. Sei stato chiarissimo, un banchetto a cui, insomma, nessuno pensa di alzarsi e abbandonarlo, ma alla fine, insomma, purtroppo neanche le briciole finiscono in realtà poi a sfamare lavoratori e lavoratrici, visto che di cambio in appalto in cambio in appalto la situazione peggiora sempre di più. Però ecco, da una parte c'è il fatto che alcuni frammenti, insomma, risultati positivi, la lotta già li ha posti in essere, e dunque dovrebbe questo discorso funzionare ancora di più per rilanciarla in avanti. D'altra parte, un certo clima di fiducia pensiamo che venga proprio dal fatto che questi lavoratori, queste lavoratrici, non si sentono da soli ad affrontare questa vertenza, perché l'appoggio degli studenti in questo caso non soltanto è utile e importante dal punto di vista materiale, ma anche proprio per rinsaldare il clima di fiducia, no? Non hanno parole per descrivere, diciamo, appunto, come la partecipazione da parte di studenti molto attiva a sostegno di questa lotta. Non c'hanno parole come poterli ringraziare, capite? Voglio dire, dicono tante volte, dico, ma come? Dovremmo essere tutti noi lavoratori a sostenere questa lotta, ma troviamo la maggior parte invece degli studenti che ci sostengono in questo modo così attivo e costante. Cioè, ci sarebbe da dire, cioè, quasi un senso anche di vergogna, cioè di vergognarsi, perché non c'è una forte partecipazione, invece da parte degli studenti c'è una forte partecipazione a questo. Capito quel concetto che ho voluto esprimere su questa cosa? Certo. E diciamo, nelle discussioni che state facendo insieme, insomma, i linguaggi che vengono usati, le proposizioni, le proposte, cioè c'è proprio un incontro che riesce, insomma, a emergere in tutta la sua positività anche rispetto all'andamento della discussione, Pietro? Sì, anche perché è chiaro, diciamo, è stato, diciamo, come dire, necessariamente da parte degli studenti usare un tipo di linguaggio che non sia troppo prettamente tra virgolette studentesco, anche perché se no non ti capiscono molto i lavoratori, no? Per cui anche questa cosa ha assunto un carattere molto comprensibile, ma sia nel modo come esporre le cose, ma anche come nella comprensione dei problemi, che sono in forme differenti, ma che comunque portano tutti allo stesso punto, cioè quello di far convergere i vari interessi generali, sia dei lavoratori che degli studenti, partendo chiaramente dal particolare, nel senso che se non vengono fatte non viene effettuato un servizio, per cui pulizia di aule, pulizia dei bagni, ma faccio alcuni esempi, chiaramente trova in disagio lo studente, che oggi gli vengono ulteriormente aumentate le tasse per pagare anche i servizi. E chiaramente questo invece che avendo fatto una gara oggettivamente al massimo ribasso, non si capisce dove andate a finire questi soldi. Cioè, io voglio dire. Certo, sei stato chiarissimo. Questo è un punto, come tante altre cose, così come la possibilità, così come nella riforma, diciamo appunto, dell'università, che si dà più respiro a mandare privatizzazioni, che non la possibilità di far confluire anche figli di lavoratori, di far cedere figli di lavoratori all'università. Per cui ti sconti anche con questo problema, che all'interno anche nostro ci stanno lavoratori che hanno dei figli che mandano all'università, e però con l'aumento delle tasse da una parte, con quello che è l'attacco nei confronti dei lavoratori, è chiaro che poi se devono fare due conti, se mandarli o no, li fa continuarsi i benedetti lì andare all'università. Senti, quindi scontiamo anche su queste cose, per cui diciamo appunto stiamo ritornando all'indietro rispetto a delle conquiste che erano state fatte, e chiaramente oggi tocca riappropriarsi di queste conquiste che erano state fatte negli anni addietro. Senti Pietro, hai detto che presso, insomma, le cooperative si sono mossi i quadri intermedi per cercare di frenare, intimidire, eccetera. La Sapienza invece come ha risposto all'avvio dello stato di agitazione? La Sapienza ci ha formalmente comunicato che loro avrebbero fatto maggior controlli, però io questi controlli nulli oggettivamente non li vedo. Allora, da una parte dovevano controllare se mandavano il personale fuori, e continuano oggettivamente a mandare il personale fuori. Ci sono tre lavoratori, due a Pisa e uno a Siena, uno all'Università di Siena e due a Pisa. Mandano a lavorare, però questo non lo sappiamo, fuori dalla città universitaria. Continuano a mandarli fuori dalla città universitaria, non sappiamo dove, e chiaramente sono tutte ore che l'università paga, ma non vengono fatte. Quindi diciamo c'è proprio, insomma, il connubio con queste aziende, incredibile. E dall'altra, diciamo appunto, la cosa, diciamo appunto, che fa ride è che l'università, attraverso l'ufficio tecnico, gli comunica all'azienda alcune settimane prima: guarda che noi verremo a fare un controllo, per cui cerca di mettere a posto. Cioè, questo non è un atteggiamento corretto. E siamo alle perché solite, se tu non insomma. Fai i controlli, te fa nel momento, cioè non devi avvisare. Mi segui che cosa voglio dire? Eh sì, questa è una realtà tutta italiana, diciamo. Questa cosa qua. È chiaro, è chiaro. Va bene. Allora, i prossimi appuntamenti quali sono? Ci sono allora, stati diversi presidi. Lunedì alle 10 davanti al rettorato. Perfetto. Quindi lunedì ci sarà un nuovo presidio come quelli che sono stati già tenuti la settimana scorsa. E poi da là decideremo il da farsi. Va bene, Pietro, noi continueremo a seguire questa vicenda che ci sembra molto importante, anche perché in questo periodo di crisi economica... Ti volevo dire che abbiamo anche ricevuto solidarietà da parte anche di altri lavoratori, cioè lavoratori esternalizzati come noi, cioè dai portieri dell'università, dagli esternalizzati della terza università e altre situazioni lavorative, dai lavoratori interni dell'università stessa, per cui diciamo appunto questa cosa chiaramente sta portando anche dei frutti, insomma, non soltanto per quanto riguarda noi, ma anche un interesse un po' più generale. E speriamo che questo interesse si allarghi dal punto di vista anche della partecipazione, della costruzione, certo, di questa vertenza, certo, nelle assemblee, no? Anche su questo abbiamo potuto misurare come questa mattina molti studenti, dico molti e non pochi, non 4-5, molti studenti questa mattina sono venuti a fare volantinaggio. Diciamo pure a un orario abbastanza proibitivo per gli studenti. La necessità stessa è che ci sia più maggior partecipazione, perché più c'è partecipazione, più c'è unità e più si riescono a conquistare le cose. Certo, dicevo Pietro, anche a orari che a volte risultano proibitivi per gli studenti, no? Bisogna anche, c'è anche questo sforzo, ecco, che di solito insomma gli studenti si dice, no, che non hanno voglia di svegliarsi presto la mattina. No, in guarda, posso smentire categoricamente. Ecco, guarda, bene. Posso smentire categoricamente perché ho visto la partecipazione veramente molto buona, molto buona. Benissimo, di questo ne siamo contenti e dunque Pietro ci risentiremo sicuramente nelle prossime settimane, è una situazione che intendiamo monitorare da vicino, anche perché ci sta vicino anche dal punto di vista fisico-geografico. Grazie Pietro, grazie per la tua disponibilità, ciao, a presto. A ciao. Ciao.